nessuna particolare circostanza, ha come occasione, questo sì, la recente pubblicazione di due volumi, dei quali poi credo si parlerà ampiamente, cioè il volume Statuti, città, territorio in Italia e Germania tra Medioevo ed Età Moderna, che raccoglie gli atti del convegno tenutosi qui nell'istituto su questo tema, è curato da Giorgio Chitolini e da Dietmar Willoweit, che furono i coordinatori del seminario, e il volume che pubblica gli statuti di Rovereto del 1425, curato da Federica Parcianello e introdotto da Marco Bellabarba e da Gerardo Ortalli. Però l'occasione non è dedicata alla presentazione o alla discussione di questi due libri. Credo che questi due libri debbano essere l'occasione per una discussione, nel senso che costituiscono certamente due importanti punti d'arrivo della ricerca e due importanti stimoli a ripensare ai modelli della ricerca e ai problemi che tuttora sono aperti sulla questione dello statuto, della legislazione statutaria, della dottrina degli statuti, dei rapporti tra statuti come diritto proprio e tradizione di diritto comune, insomma un complesso di questioni che sono ancora aperte davanti a noi. Quindi libri che sono l'esito di un lavoro scientifico, ma anche un forte stimolo a ripensare a un livello più alto la questione degli statuti nel suo complesso. Io sono lieto poi che questo incontro mantenga le caratteristiche degli incontri dell'Istituto, cioè un incontro tra amici studiosi che si trovano insieme per discutere liberamente, insomma, per scambiare interessi, curiosità, domande, senza altro scopo che quello di migliorare la conoscenza dell'oggetto della ricerca e dei suoi problemi. Credo di non sbagliarmi, credo che questo sia oggi nel nostro paese uno dei pochi luoghi della ricerca in cui ciò sia non solo possibile, ma addirittura abituale, insomma, quindi sono grato e sono contento di poter brevemente dire la mia opinione. Il nostro incontro è intitolato Agli statuti cittadini, edizioni e problemi. Sono i due momenti così logici della nostra discussione. Modelli di edizione, problemi legati alle tecniche di edizione, ma non solo alle tecniche di edizione, problemi che nascono dalle edizioni, risultati della ricerca, contributi di carattere problematico che giungono a noi dalla ricerca più recente. Io sono convinto spero che nessuno possa accusarmi di piaggeria, insomma, in questo momento. Sono convinto che questi due volumi facciano fare un notevolissimo passo avanti alla ricerca sul duplice terreno della consapevolezza storiografica da una parte e del progresso delle tecniche editoriali degli statuti dall'altra. Mi sembra di vedere, insomma, in questi due libri, ma insomma in un complesso di produzione anche recente, una correzione notevole, di una sorta di difetto di percezione, di visione della storiografia passata, una correzione di una specie di strabismo storiografico, se il termine un po' banale può essere concesso. Ho l'impressione che la vecchia storiografia sugli statuti fosse non affetta da un leggero strabismo divergente, ma affetta da un notevolissimo difetto di percezione, di visione. Ho l'impressione, cioè, che fossero ampiamente divergenti non solo modelli di metodo, ma veramente prospettive di ricerca nel loro complesso, fino ad arrivare ad una quasi totale incapacità di messa a fuoco della realtà della legislazione statutaria, dello statuto nei suoi rapporti con la dimensione politica, con la dimensione istituzionale, con la dimensione della cultura cittadina. Visioni fortemente divergenti, perché fortemente unilaterali. Da una parte un approccio strettamente giuridico-istituzionale, affetto forse da un eccessivo dogmatismo concettuale, dall'altra, ecco, una visione che era quella, insomma, più tipica della storia sociale, della storia economica, una visione, insomma, tesa a privilegiare lo statuto come dato, come complesso di dati, come fonte, insomma, a prescindere largamente dai suoi contenuti normativi e dal suo ruolo in una dinamica complessa, ecco, con la sfera sovraordinata del diritto comune. Non che fosse, io credo, totale il disconoscimento, ecco, della questione dello statuto come questione pertinente ad un terreno latamente medievistico, ma io credo che la cosa restasse a livello di enunciazione. Mi pare di vedere che la letteratura più recente abbia superato questo momento e dalla enunciazione sia passata, insomma, ad un momento diverso, ad un momento in cui una visione corretta, una visione convergente si incarna in ricerche estremamente concrete ed estremamente importanti. Basta aprire questo volume e leggere non solo la bella e dotta introduzione di Chittolini e di Willowite, ma leggere molti dei contributi che sono qui presenti per vedere, insomma, come veramente la maturazione delle metodologie e la assunzione in una storiografia che, ripeto, è certamente latamente medievistica o modernistica, delle acquisizioni più importanti anche della storiografia giuridica. Penso che si tratti di un processo di consapevole assunzione di quanto di meglio la storiografia giuridica abbia prodotto in una visione che è necessariamente più ampia, più globale, più alta, insomma, della questione. Il volume curato da Chittolini credo rappresenti un grado di consapevolezza storica della materia, della questione, mai prima raggiunto nella storiografia nostra. Non credo di dire nulla di esagerato, ripeto, non penso di poter essere accusato di piaggeria, insomma, in questo ambiente, davanti ad alcuni dei curatori o autori di saggi che sono compresi in questo volume, se affermo questo con molta decisione. Basta leggere alcune delle pagine di questo volume per rendersi conto di come si compia con questo lavoro, con i risultati del convegno, un decisivo salto in avanti. Insomma, io trovo che soprattutto sia fondamentale il riconoscimento che Chittolini pone proprio nelle premesse del suo lavoro della legislazione statutaria come fenomeno largamente originale, innovativo e soprattutto capace di porsi in una posizione centrale come elemento di coordinamento e regolazione dei sistemi giuridici in uso. Credo che questo riconoscimento, che non è più solo, ecco, il riconoscimento di una prospettiva settoriale legata ad indagini di tipo storico-giuridico, ma diventa acquisizione, in una visione che è più ampia, più piena del fenomeno, sia veramente importante e decisivo. Al tempo stesso, l'altro volume di cui ho fatto cenno, l'edizione degli statuti roveretani, credo anch'esso rappresenti un punto d'arrivo. Esso, come nono volume, insomma, di una serie che è quella del corpus statutario delle Venezie, un modello di edizione e di ecdotica, insomma, ecco, con un modello di costituzione di apparati critico-filologici, ma anche un modello di interpretazione dello statuto, dell'esperienza statutaria, della sua diffusione in un'area regionale, in un'area storicamente determinata, in un'area così importante come quella trentina. Credo che poi Grazioli ci dirà che cosa tutto ciò suggerisca a chi opera sul terreno della ricerca storica in sede regionale, insomma in una realtà che è privilegiata proprio perché storicamente si trova alla confluenza di esperienze profondamente diverse, di modelli istituzionali, politico-giuridici profondamente diversi. Germania, Italia, o meglio, insomma, l'Italia lombarda, l'Italia veneta, insomma, confluenza non priva di motivi di contrasto, di tensione, insomma, di dinamiche che sono davanti a noi come problemi storici. Quindi problemi, edizioni e problemi. Io non posso far altro qui che dare qualche cenno, forse confuso, su quelli che sono i problemi che possono stare maggiormente a cuore a chi si occupi di storia giuridica, di storia del pensiero giuridico, di storia della esperienza giuridica tardo-medievale. Innanzitutto sulle edizioni. Bisogna partire necessariamente dalle cose che un nostro comune amico, insomma, Mario Ascheri, diceva qualche anno fa, scriveva sulla Nuova Rivista Storica dell'85, ma prima ancora diceva ad un convegno al quale anch'io sono stato presente, cioè al convegno sugli statuti sassaresi. Ascheri partiva dalla considerazione che ci trovavamo, non ci troviamo, io credo che abbiamo fatto notevoli passi avanti da quel momento, ma insomma ci si trovava in una fase ascensionale, ecco, dell'interesse complessivo per gli statuti, una fase ascensionale dell'interesse su più fronti storiografici, anche se era temperato questo riconoscimento di Mario Ascheri dal lamento, insomma, della mancanza di un punto di riferimento generale, mancanza anche di una ecdotica nazionale, di un modello nazionale di ecdotica, di un modello di schedario che potesse diventare un punto di riferimento costante per gli studiosi, mancanza di una bibliografia, mancanza di un coordinamento generale, insomma, degli studi sopra gli statuti. C'era forse una esigenza di oggettivazione, ecco, di un problema che oggi può sembrare troppo forte, che a me oggi può sembrare, sembra insomma troppo forte, a me dico soprattutto perché per me il problema degli statuti rimane essenzialmente un problema di dottrina e di cultura giuridica, tuttavia insomma c'era la sottolineatura della necessità di unire insieme più competenze. Per esempio Ascheri diceva che bisognerebbe cominciare a pubblicare gli statuti facendoli precedere da introduzioni scritte a più mani. Bisogna unire le competenze, bisogna che competenze finora settoriali convergano, insomma, in una più matura interpretazione del fenomeno statutario. A me pare che da questo punto di vista le esperienze più recenti diano proprio una risposta significativa, una risposta a questi bisogni, a queste esigenze che si ponevano ormai quasi 10 anni fa. La questione che poneva Ascheri riguardava non solo la critica testuale, insomma, o l'ecdotica in senso proprio, la costituzione del testo degli statuti, ma i programmi editoriali nel loro complesso. E da questo punto di vista, certamente, passi avanti credo ne siano stati fatti, ne abbiamo qui davanti un esempio significativo, anche se bisogna dire che continuano ad esistere e non si può non tenerne conto, quelle che Ascheri chiamava non sempre limpide e controllabili iniziative di attivisti del dilettantismo storiografico e codicologico, iniziative contrastanti, insomma, con la necessità di una sempre più profonda specializzazione e recupero della collaborazione tra specializzazioni diverse nel lavoro di studio degli statuti. Ascheri naturalmente aveva davanti questo panorama di recupero rapido del fenomeno statutario da parte di storici politici, storici istituzionali, storici dell'economia, storici della società, della lingua, dell'urbanistica, dell'arte, insomma, che in quel momento sembrava quasi sommergere, insomma, l'interesse prevalentemente storico-giuridico di una volta. Credo che questo appello che Ascheri poi ha ripubblicato, insomma, altre volte, sia nel volume degli Statuti Sassaresi, sia poi nella raccolta che ha recentemente pubblicato del 91, Diritto medievale moderno, problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche, dove il testo si trova posto come capitolo settimo, problemi di edizione delle fonti statutarie, credo che questo appello sia stato colto, insomma, nel senso della ridefinizione dei compiti, degli strumenti dell'indagine storiografica, dell'iniziativa editoriale sugli statuti, e ha coinciso con la comparsa di iniziative importanti di recupero critico metodologico della tematica complessiva legata alla fonte statuto. Penso a tante ricerche di questi anni, anche quelle della nostra amica Maria Rosa Cortesi, insomma, sugli statuti di valle, a tante iniziative che qui sarebbe troppo lungo enumerare. Certo, ci sono ancora esperimenti goffi, impacciati, si pubblicano ancora statuti, si pubblica ancora un oggetto che in sostanza qualche volta non si conosce per quello che è, perché se ne ignora la natura, e non solo e non tanto in una dimensione tecnico-giuridica, voglio dire, se ne ignora spesso la natura perché si ignora la funzione dello statuto come diritto proprio, ecco, in una dinamica diritto proprio, diritto comune, che è all'origine della esperienza giuridico-politica non solo dell'età tardo-medievale, ma di buona parte dell'età moderna. C'è il problema della trasmissione dei modelli, come si diffondono i modelli statutari, c'è quel fenomeno che Gherardo Ortaldi ha chiamato della adozione statutaria, io credo che Gherardo ci dirà alcune cose al proposito più avanti. Insomma, ci sono problemi enormi, problemi di grande momento. Ripeto, le dinamiche statuti istituzioni politiche, statuti ceti, statuti dottrina. Per quanto riguarda più da vicino la storiografia giuridica o la storia del pensiero giuridico, qualche cenno. C'è stata negli anni passati, forse contestualmente a questa esplosione di interesse in altre direzioni, intorno agli statuti, forse una relativa caduta dell'interesse della storiografia giuridica per gli aspetti, forse più importanti, per gli aspetti dottrinali. Poco più di 20 anni fa la storiografia giuridica ha prodotto una splendida monografia sul tema, quella di Mario Sbriccoli. E forse nell'ambito della storiografia giuridica qualcuno può aver pensato che dopo quella monografia il tema fosse pressoché esaurito, invece Sbriccoli apriva una strada difficile, perché i testi dottrinali che si occupano dello statuto, della interpretazione dello statuto, dei rapporti tra diritto proprio e diritto comune, sono testi difficili, sono testi che spaventano, sono pieni di tecnicismi, bisogna respingere una repulsione che coglie soprattutto il giovane studioso che cerca di percorrere quelle strade, ma sono questi aspetti sui quali necessariamente la storiografia giuridica dovrà tornare a misurarsi, e credo in qualche misura sia tornata a misurarsi nei tempi, nei tempi più recenti. Ma da questo punto di vista, ecco, il saggio, il testo di Sbricoli resta come una acquisizione fondamentale, resta come un'acquisizione fondamentale, è un po' un appiglio sicuro che lo studioso ha nel momento in cui si addentra in questo mare periglioso, insomma, della statutaria tardomedievale. Forse questo ridimensionamento, e qui bisognerebbe fare anche qualche nota autocritica, si intreccia con un ridimensionamento più complessivo della medievistica giuridica all'interno della storiografia giuridica. C'è stato un tempo in cui la storia del diritto era medievistica del diritto, oggi le cose non sono più così, e forse il ruolo dei medievisti all'interno della storiografia giuridica è un lamento che qualcuno di noi può fare anche molto fortemente, è troppo ridotto rispetto alle esigenze, al bisogno di comprendere, ma le cose stanno così. C'è forse una crisi della visione unitaria anche del nostro medioevo giuridico, che corrisponde ad una crisi della visione unitaria anche di una storia d'Italia, ecco, che forse una volta eravamo tutti inclini, o molti di noi insomma erano inclini a vedere come incardinata nella città come principio ideale, no? Per mutuare la notissima espressione cattaneana. C'è insomma un po' una crisi di una trama unitaria della storia giuridica del nostro paese, che una volta si individuava in modo molto netto nel diritto comune, insomma, ecco, rivisitato storicisticamente come grande fatto spirituale, come grande felice fusione di sistemi normativi diversi, tra cui c'era appunto quello statutario. Io non credo che sia necessario insistere oltre su questi temi, sono tutti temi che possiamo presentare come argomenti di discussione, ciascuno di noi ha forse pronte delle risposte, io ne avrei tante, ho cercato di darne anche qualcuna insomma, nel lavoro quotidiano, ma credo che sia necessario misurarsi prima di tutto con i problemi. E certamente, ripeto, agli occhi dello storico del diritto, del pensiero giuridico moderno, quello della dottrina degli statuti, del rapporto tra statuti giuristi come rapporto tra statuti e dottrina giuridica, resta ancora forse il terreno più importante, il terreno più fecondo per chi voglia lavorarci. La dottrina degli statuti consiste precisamente nella elaborazione dottrinale, appunto come dice anche Chitolini qui all'inizio, insomma, elaborazione di principi che riguardano l'applicazione di norme che in genere derogano alle norme di diritto comune, che in genere recano deroghe alle norme di diritto comune o che realizzano un coordinamento tra la pluralità degli ordinamenti particolari che si trovano ad essere subordinati alla sovrapposta unità, insomma, del diritto comune. È difficile capire come tutto questo possa costituire un elemento unitario, è difficile capire come diritto proprio e diritto comune appartengano come due facce, insomma, di una stessa medaglia, come due momenti ad un medesimo complesso di esperienza. C'è un bel contributo dello storico Santarelli sulla esperienza giuridica basso medievale che ha tentato di sottolineare con forza come forse la storiografia giuridica più recente sia uscita da una divaricazione di questi due momenti, da una eccessiva separazione di questi due momenti e come oggi sia possibile riprendere a ragionare dell'esperienza giuridica del tardo medioevo vedendo nello statuto non un elemento in contrapposizione all'esperienza romanistica ma un elemento dinamico di quella stessa esperienza, una delle molle che l'ha fatta sviluppare e le ha fatto acquisire quella importanza che essa ha nella nostra storia. Qualche volta può capitare di comprendere che questo complesso di dottrine possa essere messo tra parentesi, insomma, anche quando si faccia della storia giuridica tout court, ma con queste dottrine bisogna pur sempre confrontarsi, perché alle questioni teoriche io non credo che si sia posto mente dopo che lo Statuto è nato, ma proprio mentre lo Statuto nasceva e si affermava. E quindi credo che sarebbe un errore di prospettiva storica volere separare, come qualche volta si fa in modo scolastico, prassi e dottrina, statuto e dottrina degli statuti. Piuttosto, ecco, bisogna tentare di storicizzare un po' meglio le dottrine. Credo che tutto questo possa bastare a mo' di introduzione, anzi forse mi sono preso un po' troppo tempo. Vorrei dire solo questo come ultima cosa, che dal mio punto di vista questo significa che la esperienza degli statuti può voler dire molto e può voler dire tutto se noi riusciamo a studiarla, a comprenderla, a vederla nel sistema del pensiero, cioè nella riflessione di coloro che l'hanno vissuta quella esperienza, e può voler dire poco o può voler dire addirittura nulla se noi ci limitiamo a denunciarne l'esistenza, insomma, a denunciarla come dato, a considerarla come qualcosa che è stato, che è accaduto e che magari si tratta di recuperare in modo così, non dico da antiquari o da archeologi, ma insomma accatastando dei dati, quantificando, raccogliendo avanzi. Ecco, lo Statuto ha avuto una lunga vigenza, ha avuto una lunga vita ed è stata vita che si è tradotta in sforzo di costruzione di una cultura giuridica e politica insieme. Il volume che raccoglie lo Statuto Roveretano significativamente raccoglie anche le glosse dei giusdicenti roveretani, e sono glosse che dimostrano come lo Statuto avesse una sua vita, una sua dinamica, non fosse lettera, insomma, non dico lettera morta, ma non fosse semplicemente lettera della legge municipale, fosse qualcosa di più, ecco, fosse il mezzo attraverso il quale si cercava di arrivare ad una equità che superasse sia il rigore delle leges, cioè delle leggi scritte del sistema di diritto comune, sia a volte l'eccesso del rigore dello statuto stesso. C'è un mondo di dottrina che magari è, ecco, concentrato in poche parole, ma che sta a noi intendere, insomma, è un ulteriore strumento per entrare in questo mondo, che è un mondo estremamente complesso. Tutto qui, forse ho detto anche troppo, ma è troppo confusamente, ma i problemi veramente sono tantissimi e sono tutti davanti a noi. Allora io lascio la parola a te, Gherardo.